superiore. Quando risponde deve dire superiore. Io non lo sapevo, superiore. Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita. Sì. Scusi, secondino. Secondino, una cippa di cazzo, superiore. Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Non si fa educare le persone. È invivibile comunque. Quando uno c'ha paura, è sempre spiato. Paura. Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore. Paura. Casino. Paura. È invivibile comunque. Trova di essere sempre spiato. Non si fa educare le persone. Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo. Ma la vita cadiste la trama e corazón porque tanto yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor. Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora. Liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti. È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno. Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora. Allora, buongiorno a tutti e a tutte, sono le 15:03 primi, questa è Radio Onda Rossa e questa è Racconta, trasmissione contro il carcere, che viene onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16 appunto. Oggi è il 21, mercoledì 21 di gennaio, e quindi buona libertà a tutti e tutti che... tutti e tutte coloro che ci ascoltano, ma anche chi non ci ascolta, la possa recuperare al più presto la libertà, conquistare la libertà non viene mai regalata, si conquista a volte anche con un costo alto, però poi appunto quella è vera libertà. Dunque oggi ci sono molte cose di cui dobbiamo parlare, quindi andiamo un po' veloci perché c'è questo, si avvicina la data del terzo rinvio per la chiusura degli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, ossia i manicomi criminali. È slittata per la terza volta al 31 marzo 2015, che si avvicina appunto, mancano due mesi, e però le questioni stanno ancora in alto mare. Tra l'altro la legge proposta per la chiusura dei manicomi criminali in realtà punta alla smantellamento della cultura, del meccanismo del controllo psichiatrico che è stato la base degli OPG, perché poi riproduce un sistema di reclusione, sempre rimane la reclusione, come se una persona che si ritiene che abbia del disagio mentale debba essere reclusa, così come una persona che ha un disagio invece cardiopatico non deve essere reclusa. Questa è l'assurdità di questo discorso. Lo affronteremo, lo vedremo con calma, perché sabato prossimo ci sarà appunto l'apertura di una campagna per la chiusura degli OPG, ma proprio per lo smantellamento del sistema della sicurezza sociale che è alla base degli OPG. Prima però vi vogliamo far ascoltare una corrispondenza mandata ovviamente per mail, quindi non in diretta, anche perché non potrebbe esserlo, con un compagno statunitense che vive a New York. Tre volte abbiamo andato sui contributi, lui si occupa del sistema anticarcerario negli Stati Uniti e ci permette quindi di avere intanto un panorama della situazione carceraria statunitense, newyorkese in particolare, perché negli Stati Uniti d'America molti stati hanno regolamenti penitenziari particolari, poi c'è un sistema federale che uniforma tutti, ma non totalmente, soltanto alcune cose sono definite. Comunque qui ci riferiamo alla situazione di New York e questo compagno, che si chiama Salvatore, intervista un attivista vecchio di antica data, che ha cominciato a dare una mano a coloro che occupavano le case negli anni 70. Il disagio abitativo è forte anche in America in generale, ma a New York in particolare, e quindi occupazione di case con repressione, arresti ed altro, anche lì ovviamente molto viva questa situazione, questo conflitto. Quindi questo Frank Morales, che tra l'altro è un come dire, cioè, i termini sono un po' strani, comunque lui si occupa di occupazione delle case e di repressione, e quindi fa in realtà una lotta anticarceraria. È un reverendo, però di una setta particolare degli episcopali, così si chiamano, una delle tante ramificazioni del movimento cristiano, insomma, negli Stati Uniti d'America. È però di provenienza portoricana e anche peruviana, quindi ha avuto una particolare attenzione alle queste popolazioni che sono state quelle più coinvolte e dalla lotta per la casa occupandole e dalla repressione che ne è seguita. Facciamo sentire questa corrispondenza, che è un po' lunga, però poi appunto permette, insomma, di capire un po' che sta succedendo negli Stati Uniti d'America. Potremmo anche confrontare anche i processi di lotta per la casa lì e qui e anche la repressione, come agisce e come ci si lotta contro. Adesso mandiamo il contributo e poi appunto parleremo anche di altro. Spontaneamente mesi fa ho intervistato Frank Morales. Frank Morales è un certo tipo di movimento, se si può chiamare così. Poi lo diverrà statunitense dal Bronx, in cui la gente che è attivo fin dagli anni 70, fine anni 60, coinvolto moltissimo nella lotta alla casa, e coinvolto anche nelle occupazioni, cioè gli squat. E con lui abbiamo ragionato su i nessi tra l'occupazione degli spazi urbani, principalmente a New York, e come si relaziona il movimento per la casa, specificamente a New York, con il resto dei movimenti degli anni 60-70, come si differenziano i movimenti di allora con quelli di adesso, e come il tutto viene relazionato anche all'aumento del tasso di carcerazione in cui l'impennata si è vista durante gli anni 80 principalmente. I think first of all one of the major differences between that period, we're talking late 60s and 70s. Bene, si potrebbe cominciare con una panoramica degli ultimi anni 60, primi anni 70, in cui si riscontra una devastazione di interi quartieri nelle più grandi città come New York, dell'infrastruttura, dei palazzi. Si crea una situazione di crescente povertà che colpisce principalmente le comunità di colore, e

di autodifesa della comunità contro, contro gli sfratti che minano le fondamenta in sé di intere comunità. Allora il contesto adesso è diverso, nel senso che i palazzi sono ormai nelle mani dei privati principalmente, o addirittura veramente più che privati o palazzinari, si tratta anche di banche. Quindi occupare appartamenti, occupare palazzi in questo periodo è diventato molto più difficile. C'è stato anche una militarizzazione, vabbè, sempre un corpo militare, comunque la polizia bisogna dire che è una forza militarizzata comunque, però a differenza degli anni 80 adesso l'addestramento della polizia avviene quasi in pratica tramite gli stessi schemi di un corpo militare, e in più adesso adoperano armi semiautomatiche, automatiche, che si adoperano nei contesti di addestramento militare e di azione militare, e in campi di vera e propria guerra, cioè così vista in maniera dal punto di vista convenzionale, cioè che viene adesso applicata in pratica in queste comunità, specialmente di colore o quartieri poveri, come se fossero, che lo sono in pratica sempre stato, fra dire delle forze di occupazione, però adesso molto più militarizzata. Un'altra cosa che è cambiata e che rende le cose molto più difficili adesso per quanto riguarda l'organizzazione e la lotta in generale negli Stati Uniti è che dal 2001 ci sono sempre più casi di infiltrazione anche organizzazioni pacifiste, cioè si è dilagata l'infiltrazione, mentre prima ci si concentrava, cioè le autorità si concentravano sulla distruzione di organizzazioni rivoluzionarie. Adesso invece qualsiasi organizzazione che protesta anche la più minima cosa, ormai si può anche aspettare di essere infiltrata. Tutto questo rende molto, molto difficile organizzare una qualsiasi cosa, perché c'è sempre più diffidenza tra la gente, sempre più paura, e poi c'è stato anche l'inasprimento parallelo delle leggi che ti possono sbattere in carcere dagli anni 80 in poi, oltre il fatto che quando la gente non riesce neanche ad avere fiducia nell'altra diventa veramente difficile organizzarsi. C'è stato anche ovviamente la privatizzazione di tantissimi servizi, non soltanto di palazzi che una volta erano pubblici, cioè in gestione pubblica o statale, e quindi adesso diventa in pratica il caso di proprietà privata, comunque uno occupa uno spazio come per esempio il parco Zuccotti, gestito in privato. Quindi ci sono delle leggi molto più aspre per la difesa della proprietà privata, e la polizia ovviamente può intervenire con ancora più spietatezza che in altri contesti. Poi c'è sempre di più un carrierismo sempre più sfrenato tra le ONG varie che si prendono cura, tra virgolette, dei casi di indigenza di ex inquilini, come preferisce metterla Frank invece di senza tetto, e molto lucro che si è via via costruito su questi ex inquilini, nel senso che le strutture che sono state introdotte specialmente dal 79 in poi, i ricoveri vari eccetera, sono non soltanto diffuse

E allora riprendiamo la diretta, sono le 15:50, è stato un po' lungo, però credo molto interessante questo panoramica sia sulla lotta per la casa a New York, come avete visto abbastanza simile, l'emergenza abitativa, le difficoltà e però anche la volontà di auto-organizzazione dei proprietari che anche lì si riappropriano delle case che per togliere dalla speculazione dei palazzinari e della repressione che ovviamente colpisce pesantemente. Andiamo ad altro argomento, diciamo questo anno, titolano molti giornali che stanno uscendo in questi giorni, dovrà essere l'anno della chiusura degli OPG. Perché? Perché la legge, come accennavamo prima, rinviata per ben 3 volte, e per il 31 marzo 2015 ha deciso che devono essere chiusi gli OPG, i 6 OPG che ci stanno in Italia, Montelupo Fiorentino, ad Aversa, a Napoli Sant'Eframo, a Reggio Emilia, a Barcellona Pozzo di Gotto e a Castiglion delle Stiviere. Questi sono i 6 OPG, manicomi criminali attualmente in funzione, che rinchiudono 800 persone, siamo un po' meno di 800, erano qualche anno fa erano 1500, poi sono scese a 1051 e adesso appunto siamo sotto gli 800. Questo perché la campagna c'è stata, le immagini di quei lager veramente criminali sono state fatte vedere anche in televisione, la cosiddetta indignazione, per quanto conti poco, però insomma ha scatenato un po' di difficoltà da parte dell'ordine costituito, che si sono visti costretti a fare una legge abbastanza appunto, la fretta non è mai una buona consigliera, perché è un dibattito che si era bloccato dopo la chiusura dei manicomi, la famosa legge Basaglia, quindi dagli anni 70 questo discorso sul controllo psichiatrico si era fermato nei grandi, diciamo, da parte dei grandi parlatori, cioè delle istituzioni, all'interno dei movimenti continuava questa battaglia. Il problema, appunto, hanno fatto di fretta e furia una legge che diceva vanno chiusi gli OPG perché le immagini che si erano viste in televisione erano inaccettabili. Giornali stranieri hanno visto quelle immagini, hanno detto beh, qui siamo ai lager nazisti, né più né meno, proprio una vergogna di quelle spaventose. Però la legge fatta in fretta, che ha detto vanno chiusi gli OPG e aveva mandato un anno, poi l'anno è passato e hanno dovuto fare una proroga, il secondo anno è passato, hanno dovuto fare una terza proroga, adesso siamo appunto alla terza proroga, sono 3 anni, perché non è il problema. Intanto c'è una contraddizione che poi ne parleremo bene dopo l'apertura di questa campagna, che è sabato 24, sabato prossimo, a Reggio Emilia, in una delle sedi di uno di questi manicomi criminali, di un OPG. Il problema è che la legge ha detto appunto vanno chiusi gli OPG, vanno costituiti a posto degli OPG le REMS, cioè le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Ora già questa parola è molto contorta, perché residenze vuol dire che tu stai dentro lì, quindi rimane il concetto di reclusione, non residenze quotidiane, cioè che tu non luoghi tipo la farmacia o lo studio medico dove vai lì, al limite ti fanno la tua controllo, analisi eccetera, e poi te ne torni a spasso libero per restare. No, rimane il concetto di reclusione. E comunque poi rimane il concetto di controllo psichiatrico. Dove agisce questo? Seppure quella legge dice, e questo per fortuna, per eliminare quell'elemento che è anche questo la vergogna, una delle più grosse vergogne di questo paese, l'ergastolo bianco, al pari dell'ergastolo ostativo, sono le morti. In Italia c'è la pena di morte, non vi pensate che non ci sia, perché una legge dice, la Costituzione dice, non ci deve essere la pena di morte. In realtà c'è, sia l'ergastolo ostativo sia l'ergastolo bianco sono la pena di morte, differita ma sempre pena di morte, cioè luoghi dove tu entri e non esci più, esci solo morto, e qui si chiama pena di morte. Ora il problema, l'ergastolo ostativo ne parleremo l'altra prossima volta in maniera dettagliata. L'ergastolo bianco era quello ancora più tremendo, perché tu spesso delle persone entravano per un furtarello, per una cosetta, entravano perché c'era quella famosa legge che le persone dichiarate non sane di mente non possono espiare la condanna per il reato che hanno fatto, quindi venivano non condannati ma messi in posti con la misura di sicurezza a tempo indefinito, finché uno psichiatra non dice è guarito totalmente, è tornato perfetto, può uscire. Siccome nessuno diceva così, anche perché in quei posti tutt'al più si peggiora, è ovvio, no? L'avrete visti, credo, abbiamo dato più volte negli anni passati gli indirizzi di questi documentari che si possono vedere, quindi lì dentro ovviamente già nel carcere non si può migliorare, immaginate in OPG, e va bene, e quindi nessuno firmava. Beh, c'è casi di persone che hanno fatto 30 anni di galera e anche di più, qualcuno c'è morto perché il reato loro era un furto o una piccola rapina, sono entrati senza tempo e il tempo appunto gli è passato addosso, li ha uccisi. Questa cosa qui, il problema, questa è stata tolta ovviamente perché era troppo vergognosa, e il punto centrale è stato detto che non si può risiedere in questi OPG o anche nelle successive REMS se si faranno per un tempo superiore a quello che prevede il massimale del reato che hai fatto. Se per esempio il furto massimo sono 5 anni, tu più di 5 anni non ci puoi stare, dovrai uscire, però quindi la reclusione lì dentro, ma non è stato detto che finisce il controllo psichiatrico, cioè se anche tu vieni messo fuori dal REMS o dall'OPG dopo passati gli anni, il massimale degli anni previsti per quello che hai fatto, rimani in controllo psichiatrico, quindi che prevede, può prevedere libertà vigilata, controllo asfissiante, cioè non sei una persona, non torni mai ad essere una persona libera, questo è il discorso. Il problema è che un'infermità, qualunque essa sia, mettiamo che sia un'infermità, anche quella mentale, non toglie la libertà. Già le infermità sono un problema, perché qualunque infermità, epatite, cardiopatia, tumore, le tolgono la salute, quindi già è un fatto grave. Ma addirittura questa toglie anche la libertà di potersi muovere, andare a scegliere che so il dottore, come fanno tutti gli altri persone malate. Questa è l'assurdità di questo. Quindi la battaglia è su questo terreno, che non fare in modo che chiudendo i 6 OPG si realizzino queste REMS che dovranno essere fatte a livello regionale, quindi 18, 19, 20 piccole REMS, cioè piccoli OPG con gli stessi meccanismi, un po' meno vergognosi, però insomma con il concetto di reclusione, cioè incarcerazione per chi viene individuato come affetto da disturbi mentali. Questa è la cosa più agghiacciante, si tratta un salto indietro di 400-500 anni, quindi noi non siamo messi bene su nessun terreno, questo però è uno dei peggiori. Ecco, quindi la battaglia sarà forte. Per iniziare questa grossa battaglia, sabato prossimo, sabato 24, ci sarà a Reggio Emilia un lancio di questa battaglia in pubblica, in un posto a Reggio Emilia, appunto perché c'è un luogo, c'è uno di questi OPG a Via Roma, in uno spazio sociale, lo spazio Ghirba, Via Roma 76, alle 5 del pomeriggio, alle 17 pomeridiane, sabato 24 si sarà l'apertura di queste campagne lanciata dalla rete antipsichiatrica italiana, a cui partecipano una serie di collettivi presenti in tutte le realtà italiane che appunto si battono, e inizierà una campagna che insomma, lì si dovrà decidere che diciamo percorsi avere. I don't care. Bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione, sono le 16, mancano pochi secondi, quindi noi diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di radio.